Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si fa un gran parlare di partecipazione dei cittadini alle decisioni, alle scelte della pubblica amministrazione. E si fa anche un gran parlare di social network come canali privilegiati attraverso cui questa partecipazione dovrebbe concretizzarsi. Tuttavia, questo è molto più facile a dirsi che a farsi, forse anche perché, insomma, i social network sono degli animali un po' strani e quelli di grande successo sono sempre partiti da un bisogno anche futile degli utenti, ma mai sono partiti da un bisogno degli amministratori o degli ideatori del social network. Figuriamoci se questi ideatori poi sono la pubblica amministrazione. Ecco perché questa sera vogliamo raccontarvi un caso di successo invece in cui tutto questo è avvenuto, per quanto su un tema piccolo come la gestione di una mensa universitaria. Parliamo di un'app per discutere di alimentazione, di posti dove si mangia e poi appunto del servizio di mensa universitaria. Ce ne parla Federico Pedrocchi, che ha intervistato per noi Marco Pistore, area manager per le attività Smart Cities di Trento Rise, da cui è nata tutta questa iniziativa. Sentiamo. Nella sua presentazione a un certo momento appare una scritta che è iFame, letta in inglese, iFame. Con un inglese un po' grezzo potrebbe essere tradotta come io famoso, però invece in italiano vuol dire ho fame, io fame, I in inglese e fame, no? È molto divertente questa cosa, è venuta fuori dal vostro lavoro di interrogazione dei desiderata degli studenti rispetto alle cose che dovrebbero essere fatte in una Smart City. Ma insomma, cos'è questo iFame e come c'entra, credo, con i Würster, no? Sì, c'entra sicuramente con i Würster e c'entra anche con le code. Parliamo di mense universitarie. Noi abbiamo chiesto agli studenti universitari quali fossero i loro bisogni, quali fossero le loro esigenze e come idee avessero per risolverli, e un gruppo di studenti è venuto fuori con questa idea molto carina, con questo nome appunto dalle molte interpretazioni. Sicuramente loro fornendoci questa idea e proponendoci per realizzare questo servizio volevano diventare famosi, almeno all'interno della loro comunità, e sicuramente volevano risolvere i loro problemi di fame, di lunghe code, di cibo forse non sempre adeguato ai loro regimi dietetici, il cibo delle mense di Trento. Accidenti, viene detto a una mensa di un'istituzione importante come l'università che quello che propone non va proprio bene. Questo cosa fa? Crea sbandamento? Ma inizialmente sì, poi in realtà avendo portato gli studenti a parlare con chi gestisce le mense in Trentino, l'opera universitaria, è risultato che le cose al solito si possono confezionare in maniera che nessuno si senta disturbato nei propri spazi di competenza. Quindi in realtà i commenti che si vogliono dare sul cibo non vogliono essere offensivi rispetto a quello che fa la mensa trentina, che comunque è una mensa che lavora bene, diciamoci anche le cose come stanno, insomma i soldi sono quelli che sono per realizzare un pranzo per uno studente. L'idea è di avere uno strumento con cui gli studenti riescono a capire se un piatto è adeguato ai loro appetiti, ai loro gusti. Per esempio è risultato che lo stinco di maiale, quindi già una mensa che propone lo stinco di maiale penso vada apprezzata, lo stinco non è apprezzato da tutti gli studenti, quindi probabilmente si creeranno poi dei capipopolo pro o contro gli stinchi e io mi adeguerò al gusto, diciamo, della comunità in cui mi ritrovo. Quindi nessun calpestamento di cuochi, diciamo, sì, di decisioni dell'opera universitaria, ma un po' più di social network anche su questo tema, per me è molto importante l'alimentazione. È un sistema soft per aggredire un problema che magari, certo, effettivamente con altri percorsi invece avrebbe creato delle rigidità. Sì, io penso che uno dei problemi della città smart è questa barriera molto forte che c'è in questo momento fra quello che fa la pubblica amministrazione e quello che succede fuori, in Facebook, nei social network. Se invece riusciamo a rendere la cosa un po' più grigia, se noi riusciamo a creare questo cuscinetto fra l'istituzionale e il non controllato, se riusciamo in qualche modo a portare gli studenti e i loro social a parlare con l'università, lì veramente si possono trovare delle soluzioni nuove. Anche con una formula un po' simpatica, che è molto importante dal punto di vista emotivo, no? Certamente, assolutamente, però devo dire che parlare con gli studenti, partecipare a questa applicazione iFame o iFame è di interesse non solo per gli studenti ma anche per opere universitarie, anche lì ci sono creatività, idee che magari non trovano spazio nel budget in qualche modo limitato e che trovano quindi valvola di sfogo in questa progettualità degli studenti. Vorrei ricordare alla fine che è venuto fuori nel suo intervento, avete fatto un grosso lavoro sugli studenti perché si esprimessero in quanto studenti sulle cose che riguardavano la città e il loro vivere qui. Vi aspettavate molto di più di cose dette da studenti universitari sull'università e invece sono venuti fuori un sacco di cittadini e cittadine. Sì, da questo punto di vista superato il primo momento di incomprensione in cui gli studenti pensavano volessimo riproporgli un'altra soluzione di learning, beh, è venuto fuori il risultato che gli studenti sono molto più vari e molto più cittadini di quanto noi pensassimo. E il digital divide che noi pensavamo fosse relegato alle fasce di età, quindi gli anziani che non usano le tecnologie, in realtà c'è anche all'interno dell'università, se confrontiamo gli studenti più smaliziati tecnologicamente da quelli che magari seguono materie più umanistiche. Abbiamo cittadini residenti, cittadini che si trasferiscono a Trento, cittadini turisti, per esempio i visitatori Erasmus. Ognuno ha bisogno di servizi diversi, esattamente come i diversi abitanti e visitatori della città. Infatti, lo citavo poco fa, avete scoperto che per esempio alcuni strumenti che si pensano estremamente utilizzati e diffusi per gli studenti come Facebook, non è vero che sono utilizzati da tutti intensamente, ci sono forti diversità. Ci sono forti diversità e anche chi utilizza Facebook non vuole necessariamente utilizzare Facebook per tutte le relazioni sociali. Noi abbiamo avuto molti studenti che ci hanno detto che certe comunicazioni, certi messaggi all'interno della classe preferiscono condividerli in una rete sociale della classe, non necessariamente nello strumento che loro usano per socializzare con il mondo, che è Facebook. Bene, ci fermiamo qui, anche per questa sera abbiamo concluso, ritorniamo domani con la rivoluzione dei bollettini postali. Buona serata.